Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben ritrovati a tutti. Oggi su Repubblica in prima pagina, la città che beve solo acqua da rubinetto, la metà degli abitanti di Arezzo ha abbandonato la minerale, più risparmio e meno rifiuti. Il tema della qualità dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle nostre case è tornato di nuovo di recente ad occupare la scena da quando è stata divulgata questa indagine di Altro Consumo, secondo la quale in gran parte delle città italiane si può bere un'eccellente acqua da rubinetto. Eppure gli italiani, a parte qualche eccezione come nel caso della città di Arezzo, consumano 192 litri di minerale a testa ogni anno, un vero record mondiale. In Europa siamo in assoluto i maggiori consumatori. Voi che scelte di consumo fate? Come valutate l'acqua del vostro rubinetto? Raccontatecelo all'800 24 0024 per intervenire in diretta o scrivetecelo al 349 238 6666. Metteremo a confronto le vostre opinioni con quella di intanto le due persone di Altro Consumo che hanno coordinato questa inchiesta. Matteo Metta, curatore dell'indagine per la campagna Bevi l'acqua di casa di Altro Consumo, bentornato da noi. Grazie, buongiorno. Lo avevamo già conosciuto a Soldi e Dintorni e da lì poi ci era venuto in mente così anche di ritornare su questo argomento perché avevamo notato un certo interesse da parte degli ascoltatori. Sempre per Altro Consumo, l'esperto tecnico di temi ambientali, Claudia Chiozzotto, benvenuta. Buongiorno a tutti. E naturalmente abbiamo anche l'altra parte della medaglia, l'organizzazione imprenditoriale che riunisce, che rappresenta le industrie italiane che confezionano acque minerali naturali, acque di sorgente, Mineracqua, il presidente Ettore Fortuna. Presidente, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno. Vi ho ricordato i numeri per intervenire, naturalmente utilizzateli subito, raccontateci un po' quali sono le vostre abitudini di consumo e in questo caso magari anche di risparmio, se non vi convince l'acqua di casa vostra perché avete fatto una scelta piuttosto che un'altra. Prima di andare avanti con la nostra trasmissione, prima di andare avanti con l'approfondimento su questo tema, ovviamente un'occhiata alla borsa che questa mattina ha avuto un andamento piuttosto curioso. In Europa partenza molto buona, rialzi di oltre mezzo punto percentuale per poi bruciarli tutti nel corso della giornata, della seduta. Adesso il quadro è cambiato radicalmente, abbiamo Parigi in perdita dello 0,58%, Francoforte meno 0,35%, Londra meno 0,33% e Milano perde lo 0,30%. Acquisti molto sostenuti ancora su Fiat, sul socio di riferimento Exor, più 7% più 5%. Il gruppo sta beneficiando della prospettiva di un ritorno agli incentivi fiscali per l'acquisto di auto nuove e poi c'è questo giudizio positivo di Morgan Stanley che è stato pubblicato questa mattina sul Lingotto. Pirelli più 1,37%, rialzo di un punto su Atlantiex Autostrade, Finmeccanica più 0,9%, Luxottica più 0,7%. Bocciata invece da un altro report di Equitasim, Telecom perde il 2,42%, poi abbiamo un calo di un punto per Generali, UbiBanca e Italcementi. Euro su dollaro 1,45,60, la borsa la possiamo anche lasciare, andiamo subito al tema di questa mattina. Gli italiani che fanno? Preferiscono l'acqua del rubinetto, l'acqua minerale, quella che si compra in bottiglia? Sentiamo un po' la nostra scheda. Quale acqua è meglio versare nel proprio bicchiere? Quella imbottigliata e comprata al supermercato o quella del rubinetto di casa? Se è vero che non sempre l'acqua del rubinetto ha un buon sapore, è altrettanto vero che è sicura almeno quanto quella in bottiglia e che una famiglia di 4 persone può arrivare a spendere almeno 400 euro l'anno in bottiglie d'acqua. Passare dalla bottiglia al rubinetto potrebbe quindi essere un'ottima fonte di risparmio, senza contare la fatica di trasportare i pacchi d'acqua fino a casa. Tuttavia, negli ultimi 10 anni, le vendite di acqua confezionata in Italia si sono moltiplicate, conquistando l'85% della popolazione e portandoci al primo posto nel mondo per consumo pro capite. Ma, abitudini a parte, chi assicura la qualità delle acque? Le acque imbottigliate sono garantite e controllate alla fonte dal produttore, con controlli chimici bimestrali, dalle aziende di imbottigliamento con analisi quotidiane, dalle autorità sanitarie con controlli chimici per lo più stagionali. Il controllo completo della qualità alla sorgente si verifica a cadenza annuale. Per quanto riguarda invece quelle di rubinetto, i responsabili sono le municipalizzate e gli enti locali, ma anche i proprietari e gli amministratori di casa. Infatti, gli acquedotti sono coinvolti soltanto fino al punto di erogazione dell'acqua, mentre gli ultimi metri di tubatura sono di pertinenza dei proprietari o degli amministratori. È anche negli impianti di erogazione domestici che si sviluppano inquinanti. Tuttavia, i controlli sanitari dell'acqua del sindaco si verificano con cadenza anche settimanale da parte di laboratori che poi inviano i risultati al comune. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Io vedo già che gli ascoltatori si sono scatenati, ognuno ci vuole raccontare le sue abitudini di consumo, che tra l'altro negli ultimi anni ha visto anche dei cambiamenti sul mercato, perché sono stati introdotti dei prodotti che ci permettono di versare in alcune caraffe particolari l'acqua e depurarla direttamente con questi sistemi, oppure altri sistemi tecnologici. Poi i nostri esperti ci spiegheranno come funzionano, che vanno applicati direttamente ai rubinetti. Insomma, novità ce ne sono tante, ma sono tutti specchietti per le allodole, funzionano davvero? Insomma, dobbiamo fidarci dell'acqua esclusivamente in bottiglia o comunque dobbiamo fidarci un po' di più dell'acqua che sgorga dal rubinetto di casa nostra? Matteo Metta, cominciamo con Bevi l'acqua di casa, questa campagna di altro consumo che ha riservato molte sorprese, un'inchiesta condotta in 35 città italiane, quali sono le più virtuose e quali quelle dalle quali è meglio assolutamente neanche avvicinarsi minimamente all'acqua. Le più virtuose sono state Campobasso e Potenza, sono le acque Superstar, ma vengono anche molto bene altre acque come per esempio quella di Pescara, quella di Frosinone, quella di Roma, sono tutte ottime acque. Purtroppo agli ultimi posti troviamo Reggio Calabria, che non è purtroppo, la cui acqua non è assolutamente potabile per via di infiltrazioni di acqua marina, quindi di sali in eccesso, e Lecce e Ferrara, dove abbiamo trovato un cocktail di sostanze di inquinanti sostanzialmente, però comunque sempre al di sotto dei limiti di legge. Avete fatto anche poi un controllo incrociato, poi magari termineremo anche di fare la lista della spesa di queste città per verificare per esempio se in queste città, in quelle per esempio particolarmente virtuose, c'è anche un elevato utilizzo dell'acqua da rubinetto, comunque si utilizza nonostante questo molta acqua in bottiglia. Chi vive in queste città dal sapore, da altri fattori, si accorge che l'acqua appunto del rubinetto è più o meno buona. Per esempio gli abitanti di Lecce sono stati avvisati dalle ASL che l'acqua insomma era potabile, però non buona al 100%, quindi loro quando la bevono si accorgono che non è buonissima, per cui qui si fa largo uso di acqua minerale, per fortuna che certo, c'è l'acqua minerale. Certamente, insomma. Infatti. No, tra l'altro poi proprio anche la questione della comunicazione è molto importante. Leggevo questo pezzo relativo alla situazione della città di Arezzo, che è particolarmente virtuosa, un abitante su due beve l'acqua dal rubinetto, però c'è anche da dire che la società che si occupa della depurazione ha fatto una grande campagna pubblicitaria proprio per far sapere ai cittadini che si viaggiava in una situazione di sicurezza totale. Matteo. Infatti quello che manca all'acqua potabile è proprio questo, la qualità ce l'ha, ma le manca la pubblicità, quello certo, che invece le multinazionali dell'acqua spendono milioni di euro per fare pubblicità e presentarci l'acqua minerale come elisir di bellezza. Diamo l'acqua subito a loro la parola. Allora, visto che me l'hai offerta su un piatto d'argento, prima di sentire il nostro esperto chimico e tecnico, sentiamo Ettore Fortuna, presidente di Mineracqua. Presidente, io quando ho presentato la prima volta questa indagine a Soldi e Dintorni in un'altra trasmissione, mi era sembrato appunto di avere a che fare con un'indagine che non aveva assolutamente l'intenzione di demolire l'industria del settore, quindi di metterla in cattiva luce piuttosto che... voi invece come l'avete presa? No, assolutamente, anche le parole che ha detto adesso Metta, e immagino quello che dirà la Chiozzotto, non è questo il punto. So che vi conoscete benissimo, infatti. Sì, ci confrontiamo spesso. Il problema è un altro, siccome io credo che anche trasmissione come la vostra, la scheda era una scheda fatta molto bene, e per la prima volta voi dite, voi, perché su altri media non si dicono, non si leggono queste cose, che la responsabilità dell'acquedotto arriva fino al punto di consegna. Questo è un dato importantissimo che ci permette poi di capire che cosa bisogna fare. Allora, la prima cosa da dire, se vogliamo informare correttamente i cittadini, certo, i cittadini, che prima di tutto il cittadino è libero di bere quello che vuole. E infatti, nessuno ha dubbi sulla sicurezza dell'acqua potabile, ma io come cittadino, si figuri. Secondo, però, c'è da dire che sono acque diverse, non sono equiparabili, perché scientificamente è una comparazione non corretta, perché sono acque diverse per provenienza, per origine. L'acqua, molte acque potabili vengono da fiumi, da laghi, sono soggette a trattamenti di potabilizzazione e poi di disinfezione. Inoltre, come sapranno benissimo Mette e Lacchiozzotto, in Italia c'è questo strano principio, questo strano meccanismo delle deroghe, cioè moltissime acque potabili in Italia vengono erogate in deroga ai parametri di legge. Faccio un esempio molto semplice. Sì, ci aiuti a capire. Il limite sull'arsenico è 10 microgrammi litro sia nell'acqua minerale che nell'acqua potabile, è stato unificato. Ci sono molte acque che vengono derogate ad erogare acqua potabile con arsenico fino a 50 microgrammi, che era il vecchio limite. Ora, nessuno contrae il tumore della pelle bevendo acqua a 50 microgrammi, ma certamente nell'acqua minerale 50 microgrammi non ci sono. Ma non ci sono neanche 10. Certo. Allora, ci sono tante differenze. Allora il cittadino deve sapere che può anche non bere l'acqua minerale se ha problemi di spesa. Sulla spesa voglio dirle che i 400 euro non mi risultano, perché una famiglia media italiana, calcoli fatti da società che fanno questo mestiere, se acquista un'acqua di primo prezzo, cioè quelle che costano meno, spende 80 euro l'anno. Se acquista un prodotto di marca arriva a spendere 240 euro, quindi 400 euro non sta in piedi. Allora, il problema è capire, sapere che sono acque diverse, sapere anche che una serie di contaminanti e di inquinanti che lo stesso altro consumo ha ritrovato, pur in tracce che sono... Esatto, sì, in qualche minerale, sì. Nell'acqua minerale non ci sono e non ci possono essere, non ci sono, perché nell'acqua minerale non ci potrà mai essere tetracloretilene o tricloretilene, che sono i prodotti di contaminazione che vengono dall'attività dell'uomo. Presidente, abbiamo ancora un'altra mezz'ora di tempo per discutere di tutto questo. Lei intanto una prima serie di punti molto interessanti ce l'ha già offerte, e poi da questa parte partirò nella seconda parte di Salvadanaio con Claudio Acchiozzotto, perché intanto mi piacerebbe anche capire quali parametri sono stati analizzati nell'indagine fatta appunto nelle acque pubbliche, e poi ad altro consumo non risulta invece che le minerali siano decisamente così sicure al 100%. Poi sicuramente magari le tracce dei prodotti che troviamo sono minime, ma non sono inesistenti. Eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina parliamo di acqua, di quella che sgorga dai nostri rubinetti. In molte città è un'ottima acqua, ma non lo sappiamo perché magari le nostre amministrazioni non ce lo dicono. Allora noi preferiamo consumare l'acqua minerale. Ovviamente scelta assolutamente legittima, qualche volta è proprio anche banalmente un problema di gusto. Io so perfettamente che l'acqua di Milano si può bere, ma non la sopporto, per cui sceglierò sempre per tutta la vita la minerale, quella che mi piace, magari quella un po' frizzante, l'effervescente naturale. C'è la questione di gusto, ma c'è poi anche la questione delle componenti che in queste acque vengono ritrovate. Allora ritorniamo all'inchiesta di altro consumo. Claudia Chiozzotto, esperto tecnico appunto di temi ambientali, quali parametri sono stati analizzati in queste 35 città monitorate da altro consumo, che poi è proprio la base di queste indagini di cui stiamo parlando? Ed è vero che avete trovato anche qualche componente strana in qualche acqua minerale? Ma partiamo? Le inchieste sulle acque potabili di altro consumo si basano sempre sul decreto 31/2001, che è quello che regolamenta la qualità delle acque destinate al consumo umano. Di tutti i criteri abbiamo dovuto scegliere alcuni parametri, e quindi scegliamo in genere i parametri che permettono ai consumatori di fare un confronto diretto tra l'acqua della propria città e le analisi di etichette delle minerali. Quindi un primo gruppo di parametri è quello un po' più tranquillo, insomma la durezza, il residuo fisso, il sodio, sono parametri che i consumatori sono abituati a sentire spesso pubblicizzare dalle acque minerali. E quelle che troviamo anche nelle etichette poi delle minerali. Esattamente. Poi scegliamo di analizzare i nitrati e poi tutto un gruppo sostanzioso appunto di composti che sono pericolosi per la salute, quindi è meglio non trovare nelle acque destinate al consumo umano. Quindi i solventi, i sottoprodotti di disinfezione e per la prima volta anche un gruppo nuovo di possibili contaminanti delle acque, che sono i perturbatori endocrini, sostanze che possono avere un effetto di interferenza con gli ormoni del nostro organismo e quindi sono particolarmente particolarmente pericolose, diciamo, per gli organismi in fase di crescita, i neonati, gli adolescenti. Mm-hmm. È una famiglia di sostanze sulle quali la comunità scientifica si sta appunto chiedendo e sta indagando gli effetti sulla salute. Quindi, come al solito, non ci limitiamo a verificare l'ottemperanza ad alcuni parametri di legge da parte delle acque, ma cerchiamo di fare sempre un passo in più per dare ai consumatori, ai nostri lettori, anche informazioni un po' più interessanti e un po' più innovative rispetto alla qualità dell'acqua. Il presidente di Mineracqua, Ettore Fortuna, diceva prima, adesso lo risentiremo, che in ogni caso non ci sta a fare questo paragone, nel senso che l'acqua del rubinetto non è, per quanto possa essere assolutamente sicura e potabile e quindi destinata a più largo consumo, non può però essere paragonata a quella minerale. Questo è vero, perché le acque minerali nascono veramente in una situazione privilegiata, hanno serbatoi protetti, sorgenti altissime. Purtroppo però la nostra esperienza nelle inchieste sul campo, anche nei test sulle acque minerali, spesso smentisce questa fantomatica purezza delle acque minerali, perché in alcuni casi, quando facciamo analisi un po' più approfondite anche sulle acque in bottiglia, troviamo contaminanti che sono regolamentati per le acque di rubinetto e che invece non devono comparire in etichetta per le minerali. Come ci finiscono nelle minerali? Purtroppo l'inquinamento è diffuso, ecco, insomma, si tratta di falde magari basse, non così alte come pubblicizzate invece da altri marchi, per cui magari uno pensa che tutte le acque sgorghino a 2000 metri di altezza, invece molte falde sono tranquillamente a livello pianura padana e in molti casi, devo smentire appunto l'avvocato Fortuna, come il caso di Arezzo, le acque imbottigliate sono le stesse che in quella città vengono consegnate attraverso l'acquedotto ai cittadini e quindi non sono poi nella realtà in molti casi così veramente diverse. Presidente Fortuna, eccoci qua. Non lo so, da lei, perché io tra l'altro mi occupo molto di mutui, tasse, scudo fiscale, qua dell'acqua, veramente è la prima volta che ci mento in una maniera così approfondita, quindi sono anche un po'... Cominciamo dal puntualizzare una cosa che è pacifica. L'indagine di altro consumo è stata fatta sulle acque potabili a livello di fontanelle delle città, sì, vero? È vero. Non sì. Al rubinetto di casa. Anche voi nella scheda avete detto correttamente che i problemi si verificano al rubinetto, perché la qualità della fontanella è diversa da quella del rubinetto. Infatti, no, ma con Matteo Metta l'altra volta a Soglie d'Intorni l'avevamo anche detto. Questa non è colpa o responsabilità dell'acquedotto, come avete detto giustamente nella scheda. Allora, perché non prendiamo gli spunti, diciamo, dialettici, critici, di discussione e li esaminiamo, anziché per esempio liquidare, come altro consumo ha fatto, almeno nell'articolo che ha scritto sulla rivista, la ricerca fatta dall'Università di Napoli, che vorrei chiarire una volta per tutte, trova anche come aderenti alcuni acquedotti, va bene? Perché è un'indagine sulla qualità dell'acqua che gli italiani bevono. Che cosa stabilisce questa inchiesta dell'Università di Napoli, Presidente? Perché non la conosco. Un'inchiesta, è uno studio scientifico, cioè è uno studio che ha significatività ed è ripetibile, cioè chiunque campioni l'acqua ai rubinetti delle città prese in considerazione dall'Università di Napoli, che sono 50, nelle grandi città hanno campionato in 4-5 quartieri diversi, perché le acque sono diverse nelle grandi città, gli approvvigionamenti sono diversi, è pubblicata su una rivista scientifica e da questo studio emergono criticità su cui è bene lavorare. Voi ne avete detta una giusta nella scheda. Gli amministratori dei condomini fanno mai le analisi all'acqua condominiale? Hanno il dovere e il diritto di chiamare l'ARPA e l'ARPA deve venire a fare il controllo. Mettiamo subito questo bel punto all'ordine del giorno della prossima assemblea, già che me l'ha fatto venire in mente. Esatto. Adesso vorrei dare un consiglio, chiarimento al consumatore che ci ascolta, perché attenzione, la gente, il cittadino, non può essere ingannato, va bene? Allora, il consumatore non può decidere lui, ho bevuto l'acqua del rubinetto, è ottima, è buona. La bontà di un'acqua te la dà l'analisi, e le analisi oggi sono complesse, sono sofisticate, perché vorrei chiarire anche alla signora Piozzotto che quando si parla di chimica, e in particolare di chimica analitica, va bene, parlare di assenza di contaminanti vuol dire presenza non significativa. L'assenza in chimica non è zero, non esiste, vuol dire che ci possono essere dei contaminanti, ma in tracce talmente infinitesimali che non hanno nessuna correlazione con un problema igienico sanitario. Devo dire, allora, loro non hanno bisogno di difendersi, mi scusi se la interrompo. No, siccome però Matteo Metta l'altra volta, io ribadisco sempre la trasmissione che abbiamo fatto in un'altra circostanza, aveva anche detto questa cosa, nel senso che è chiaro che l'acqua della mia città può essere ottima, però dipende poi anche quello che arriva al mio rubinetto, la qualità delle mie tubature. Esattamente, e infatti ci avevamo anche dato, Matteo, glielo posso far dire un attimo, dei suggerimenti per poter fare una valutazione in maniera indipendente. Sì, la lascio concludere. Quegli eventuali contaminanti trovati nelle acque minerali, a parte il fatto che ci piacerebbe sottoporli proprio all'Università di Napoli, che ha fatto uno studio anche sulle acque minerali e non li ha trovati, da quello che a me risulta si parla di parti per trilione, cioè siamo a livelli di tracce talmente infinitesimali, perché vede, dottoressa Diozzotto, la purezza in chimica vuol dire, non è puro, non vuol dire che non c'è nulla, vuol dire che se si trovano degli elementi in tracce talmente infinitesimali che sono, perché si trova tutto, perché oggi le apparecchiature di controllo, ci sono apparecchi che vengono tarati alla ricerca dei nanogrammi, noi su certi parametri nella nostra legge sull'acqua minerale dobbiamo stare entro i limiti di nanogrammi, va bene? Quindi questo va detto con molta chiarezza. Va bene, va bene, allora ci ritorniamo, Presidente, aspetti un attimo perché io volevo anche sentire qualche ascoltatore. Allora, siccome avevo dato un assist a Matteo Metta per farci dare qualche indicazione pratica per poter fare una valutazione in casa nostra dell'acqua che magari saremmo intenzionati a bere direttamente dal rubinetto, non dico tanto, Presidente, per risparmiare sul costo dell'acqua minerale, quanto, guardi, gliela metto così, per risparmiare sul trasporto, perché a me pesa un po' portare acqua minerale in continuazione a casa, poi c'è anche il problema dello smaltimento delle bottiglie di plastica e quant'altro. Elena dalla provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io abito a Verona, abitualmente, dove bevo l'acqua del rubinetto, però in questo momento sto andando verso Mantova, in un'altra casa, una casa di campagna, e dove non c'è l'acqua dell'acquedotto e dove ogni casa deve provvedere a un pozzo, pesca dalla falda e l'acqua è imbevibile, puzza, certo, puzza, è colorata, rossa, sì, è ferro, ma ci sono anche altre cose, nei campi si buttano tanti prodotti inquinanti e va giù nelle falde. Io non mi fido a bere, non bevo, non faccio neanche la minestra, mi porto un bottiglione di acqua da Verona per fare la minestra. Addirittura, Elena. La ringrazio, le faccio fare un'analisi di queste città dalla nostra Claudia Chiozzotto. Sì, in realtà un'abitazione dove non arriva l'acquedotto, ma l'acqua viene pescata da un pozzo, praticamente non ha acqua potabile, quindi lei fa benissimo a non bere quell'acqua. L'acqua potabile deve essere certificata dall'azienda sanitaria locale, quindi è solo tramite controlli assidui e costanti che diventa potabile, esatto, anche col suo contenuto di cloro. Peraltro stiamo parlando di grandi città, non ci dimentichiamo che in Italia, insomma, si abita in piccoli paesi, ognuno dei quali può essere magari gestito in maniera completamente diversa rispetto a quello che sta a 5 km di distanza. Matteo Metta, allora, voglio fare un controllo dell'acqua di casa mia per verificare se dal punto di vista dei parametri chimici che ci avete indicato prima, per gran parte di noi totalmente incomprensibili, è un'acqua di qualità, quindi che può essere destinata ad essere consumata magari anche da un bambino piccolo che abita con noi. Dal momento che c'è differenza tra l'acqua dell'acquedotto e l'acqua che arriva poi nelle case perché c'è il problema delle tubature, mi spingo ancora oltre lanciando la nostra iniziativa. Se andate sul sito la trovate, abbiamo stretto con un laboratorio specializzato un accordo per fornire ai nostri soci, a tutti quelli che lo vorranno, le analisi dell'acqua a un prezzo vantaggioso perché sennò non è tanto vantaggioso, perché sennò costosa. Noi appunto sperando che aderiscano a questa iniziativa tanti e che possano passare tanti all'acqua dell'acquedotto lasciando tu mi vuoi proprio far litigare con Ettore Fortuna oggi, ho già capito. Lanciamo questa iniziativa per cui potete far analizzare anche a un prezzo abbastanza modico l'acqua che arriva nel rubinetto di casa, quindi insomma facciamo sicuramente un controllo. Stanno arrivando decine di messaggi, sono molto contenta, è davvero, come dire, un tema assolutamente trasversale questo, ci interessa a tutti quanti e ci sono molti ascoltatori che ovviamente raccontano le esperienze delle proprie città e in molti si chiedono anche, per esempio, se la bottiglia di plastica inficia la bontà dell'acqua, come Camillo da Pescara, perché molti ascoltatori rilevano anche che magari quelle minerali sono sicuramente maggiormente controllate, con tante analisi, come ci diceva prima il presidente Fortuna, poi però vengono stoccate, magari stanno ferme al sole in grandi piazzali per diversi giorni. Insomma, tutti questi aspetti anche in qualche maniera poi vanno a deteriorare la qualità dell'acqua destinata al consumo. Adesso ci arriviamo con il presidente Fortuna, intanto Giuseppe dalla provincia di Como. Presidente Giuseppe, sì. Giuseppe? Pronto? Sì, lo so che si è stancato perché la sto facendo aspettare da tanto. Ci dica tutto. No, come ha detto il presidente. Sì, sì, ha ragione. No, aspetti un attimo che tolgo il viva voce anche al ritorno. Sì, per carità. Ecco, eccoci qua. Senta, niente, io devo fare una piccola premessa. Che sia piccola però. Piccola, sì. Commercializzo depuratore osmosi inversa, per cui cerco di informarmi a vari libri e testate giornalistiche su tutto ciò che è contro l'acqua potabile, contro l'acqua minerale, ovviamente per il mio interesse commerciale. No? Direi. Mm. Ecco, però non sono un chimico, per cui non è che ho l'assoluta certezza che quello che si legge effettivamente sia affidabile. Però io ho letto che il limite dei nitrati in Italia è di 50 mg e l'Organizzazione Mondiale della Sanità invece dà come linea guida 5 mg, considerando che sopra i 10 per i neonati c'è il rischio di metemoglobinemia, per cui anche di morte bianca, allora, sì, del sonno. Primo punto. Sì. Se mi dà la possibilità, un secondo punto, poi sì, lascio la parola a voi. Secondo punto è che dai rubinetti di casa esce un'acqua, diciamo, che per legge dovrebbe essere migliore di quella minerale per quantità di arsenico concesse, cadmio, eccetera, eccetera. Però c'è il problema del cloro che se non arriva a sufficienza rilascia nell'acqua comunque contaminanti fecali. Mi faccio riferimento alla ricerca su 50 città in 17 regioni dell'Università di Napoli che abbiamo citato, sì. E se veramente non il cloro è sufficiente, però l'uso prolungato, dice Marco Guida, igienista e tossicologo, l'uso prolungato di cloro può provocare rischi, cancro prostata, vescica, retto. Per cui voglio dire, una certa sicurezza di utilizzare l'acqua potabile secondo me non c'è. Allora Giuseppe, la ringrazio per tutte le sue indicazioni, magari un attimo un parere del chimico Claudio, che è sotto questa percentuale di nitrati indicati dall'ascoltatore, 50 mg secondo i nostri parametri, 5 mg secondo i parametri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, corrisponde a verità questa? Ma a dire il vero l'unico altro limite diverso dal 50 che è comparso è sono i 10 mg litro che devono avere, che è il limite per le minerali destinate all'alimentazione della prima infanzia. In realtà l'OMS proprio nelle sue ultime linee guida ha ricordato che non c'è nessun motivo per abbassare il limite dei nitrati sotto il 50 mg litro per le acque destinate alla popolazione. L'altro aspetto relativo al cloro, che io ovviamente riesco a fatica a ricostruire, indicato appunto dall'ascoltatore di Como, comunque il cloro c'è nell'acqua e Matteo l'altra volta indicava, insomma, lasciamo decantare per una notte una caraffa d'acqua, il cloro evapora e quindi siamo, sì, a posto. Sì, ma questa infatti è la soluzione troppo semplice per chi vende, chi per migliorare la qualità dell'acqua. Il cloro arriva ai nostri rubinetti proprio per garantire la salubrità microbiologica dell'acqua, quindi che non ci siano epidemie di gastroenterite per i consumatori che non solo la consumano ma ne fanno anche l'uso igienico. Infatti il famoso 25% di contaminazione da batteri fecali dello studio dell'Università di Napoli ci sembra del tutto inverosimile, perché se così fosse veramente i nostri reparti di gastroenterologia degli ospedali sarebbero costantemente. Ci sarebbe solamente. Allora, intanto c'è molta gente, molti ascoltatori che ci stanno chiedendo informazioni per mettere questi impianti di depurazione in casa, più o meno importanti, ingombranti, al rubinetto o semplicemente in queste caraffe. Adesso cerchiamo di dare qualche indicazione anche su questo, prima di risentire il presidente di Federacqua, di Mineracqua. Stamattina Federacqua, Mineracqua, mi sbaglio in continuazione. Volevo sentire Luciano dalla provincia di Padova. Luciano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Anche lei ha adottato un impianto per farsi insomma, una depurazione casalinga? Sì, io ho installato un addolcitore sull'impianto e poi ho messo l'impianto dell'osmosi inversa. Mm. Ecco, voglio sapere se è un sistema idoneo oppure no. Adesso lo chiediamo a Claudia Chiozzotto, prima però il presidente di Mineracqua, Ettore Fortuna. Presidente, no, peraltro, adesso dovete, oltre al fatto che naturalmente stiamo cercando di fare la campagna per dimostrare che l'acqua delle nostre città è buona, tra l'altro, voglio dire, non è che la beviamo soltanto, ci laviamo, ci facciamo tante altre cose, quindi deve essere decente anche per gli altri tipi di consumo che ne facciamo. Dovete affrontare anche la concorrenza adesso di tutti questi impianti nuovi che si possono mettere nei rubinetti per migliorare la qualità dell'acqua. Allora, che migliori la qualità dell'acqua è tutto da dimostrare. Tutto da dimostrare, anzi, ci sono inchieste della Procura di Padova. Questo è vero, l'ho saputo anche se sì, esatto. Ci sono queste carafe che utilizzano questi filtri dove si annida la carica batterica più alta. Su questo tema è vero. Volevo tornare sui nitrati perché è importante. Sì. Allora, chiariamo innanzitutto il limite dei nitrati per l'acqua potabile è 50 mg, per l'acqua minerale è 45, poi cambia poco. Il 10 mg è quell'acqua che è al di sotto di 10 mg di nitrati e può fregiarsi delle indicazioni per i neonati. Poi se al neonato gli dai un'acqua del rubinetto che ha 30 microgrammi, facciamo milligrammi di nitrati, ma non è che lo avveleni, attenzione, quindi le cose vanno prese, e lo dico quindi per eccesso, proprio per essere più realista, le cose vanno prese con un certo grano salis, perché altrimenti non, con i milligrammi, i microgrammi non facciamo più confusione al consumatore che altro. Veniamo a questi apparecchi. Questi apparecchi, ripeto, c'è un'inchiesta a Padova, sono sotto indagine in un'altra procura importante, perché, e qui c'è una contraddizione, se l'acqua potabile è così buona, ma perché bisogna migliorarla? Mi spiego? Allora, qual è il miglioramento che apporterebbero i filtri? Tolgono il cloro residuo, quindi va via quel sapore, e quindi la espongono alla contaminazione batteriologica. Oppure l'osmosi inversa, va bene? O il calcare, per esempio? Ma il calcare forse lo eliminano, ma nell'eliminare il calcare eliminano tutto ciò che c'è nell'acqua di positivo. Quello che prima la Chiozzotto definiva il residuo fisso che c'è anche nell'acqua potabile, qui apro e chiudo una parentesi, parlare di residuo fisso nell'acqua potabile non è semplice, perché l'acqua potabile non si può dire che abbia un residuo fisso di 50 mg o si dice che quell'acqua è compreso, il residuo fisso di quell'acqua potabile è tra 50, 0 e 500. Perché? Perché varia continuamente, mentre se lei prende un'etichetta di un'acqua minerale, alla voce residuo fisso, cioè la quantità di minerali che c'ha, è 86 mg, 324, e sono sempre quelli. Quindi altra differenza importante tra acqua potabile e acqua minerale. Presidente, allora, io questi apparecchi che cosa fanno? Di fatto sottraggono molte volte questi elementi all'acqua, per cui si fa un'acqua pressoché distillata, e quell'acqua lì non è indicata per il consumo per bere, umano. Esatto, infatti anche Claudia Chiozzotto me lo diceva prima, quella va bene solamente per stirare, per metterla nel ferro da stiro, parliamoci chiaro. Allora, questo è un tema che magari più avanti, se andranno avanti queste indagini che lei, Presidente, ci ha citato, ci ritorneremo, perché visto che è un tema che riguarda strettamente la nostra salute, ci interessa sicuramente affrontarlo di nuovo. A me rimangono solo 30 secondi di tempo per salutarvi, vorrei chiudere però con Claudia Chiozzotto. Allora, insomma, abbiamo capito quello che stabilisce la vostra indagine, l'abbiamo guardata molto sommariamente, abbiamo ovviamente anche compreso ragionevolmente la presa di posizione di Mineracqua. Qual è un consiglio utile a tutti i consumatori che ci ascoltano per poter adottare con serenità delle abitudini idriche sane e tranquille, insomma? Il consiglio di altro consumo è informarsi, come sempre, aprire gli occhi, cercare sempre di guardare dietro le apparenze e chiedersi veramente se le proprie abitudini non siano in qualche modo con poco modificabili e con un grande vantaggio. E poi mi suggeriva anche prima dell'inizio della trasmissione, comunque, anche se si fa l'uso di acqua minerale, assolutamente è legittima perché ne usiamo tantissima nel nostro paese, variarle, sì, bere insomma, bere l'acqua minerale quando si è in giro, e se l'acqua di casa è buona, preferire l'acqua di casa. grazie a Matteo Metta, Claudia Chiozzotto di Altro Consumo, al presidente di Mineracqua, Ettore Fortuna. Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.